pensato un'altra cosa. Sì, mi è venuto in mente anche un'altra cosa, perché mi succede spesso che anche di persone molto giovani che non conoscono diano anche a una persona anziana, gli diano del ciao. E io sono un po' all'antica, perché mi avevano insegnato così, anche con rispetto, però preferisco che anche a una persona anziana i giovani le buongiorno, buonasera, e non subito il ciao. È già un buon saluto, però come rispetto, perché è già un pochino più per gli anziani, così buongiorno, buonasera, dopo. Se c'è un pochino, un attimino, che magari li vedi diverse volte, quella troppa confidenza così, quel ciao così di impatto, non è che, diciamo, troppo confidenziale, ecco, primo impatto, un po' sfacciato, ecco, è già un buon segno, per l'amor di Dio, il saluto è sempre ben accetto, ecco, così. Grazie, vi saluto, buonasera.